Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, anche questa settimana, due bei progetti di crowdfunding sulla piattaforma di Apple. Trovate tutti i dettagli anche sulla pagina Si può fare, sul sito di Radio 24 e sulla pagina di Crowd Me Up. Andiamo a conoscere intanto i nostri giurati, che abbiamo già conosciuto. Sono Emma da Torino, Roberto da Roma e Antonio da Genova. C'è Antonio? Sì, ci sono, buongiorno. Eccolo qua, Antonio. Volevi intervenire però sul tema della trasmissione. Intanto, cosa volevi dirci, Antonio? Allora, inizio sempre con un, come insegnate voi, con un messaggio positivo, perché ahimè dopo dovrò un po' essere antipatico, però voi siete di una intelligenza tale dove sono sicuro che l'antipatia in senso greco stimolerà un livello critico superiore. Stai alzando un sacco la suspense e anche l'asticella, vai Antonio, vai. Esatto, allora io dissento un po' sull'approccio e sul taglio che date al cannabis, a quell'argomento, perché mi sembra che ci sia la mancanza del dubbio, ci sia un po' troppa sicurezza nell'approccio e manchi invece quel dubbio che in ogni interlocuzione deve invece esserci per... Sì, ti fermo su una cosa però, Antonio, ti fermo su una cosa, perché stamattina abbiamo parlato di canapa, cioè quella per fare l'olio di canapa, il tessuto di canapa, questo era la proposta. Senza il THC, quindi è proprio una follia pensare che siccome è la stessa pianta che qualcuno potrebbe usare per fumarla, allora vietare quella, perché stiamo parlando della pianta che non contiene THC, in realtà serve per fare mattoni, poi è certo, l'ideale per l'ambiente, un sacco di cose. Siamo anche io personalmente favorevole alla legalizzazione di quell'altra, però stamattina l'argomento era quello. Il dubbio che mi veniva a me era perché la stiamo importando dall'Olanda? Perché è molto più facile controllare quella che viene dall'esterno piuttosto che in terre come dove ahimè io sono nato, dove ogni 500.000 persone belle, bellissime, meravigliose, ce n'è una disonesta, ma al punto tale disonesta da diffondere la criminalità, insegnare la criminalità in tutto il mondo, mettere lì una realtà dove è un attimo perdere il controllo. Ho capito, tu sei sfiduciato, volta, però Antonio ammetterai una cosa. Antonio, ma si toglierebbe la criminalità in realtà proprio producendola e rendendola legale comunque. Antonio, scusami. Sì. No, Carlo ti stava dicendo, cos'è che stavi dicendo? Che in realtà la si toglierebbe alla criminalità nel momento che la si legalizzasse, quindi in realtà si risolverebbe questo problema che stai sottolineando. Mettendogliela lì dove sappiamo che non abbiamo il controllo, dove le istituzioni sono assenti? Ma certo che avremmo il controllo, perché viene legalizzata e quindi verrebbe venduta dallo Stato. E quindi lo Stato, guadagnandoci, avrebbe tutto l'interesse ad averne il controllo molto preciso. Antonio, Carlo, poi questo la rimandiamo a un'altra puntata, perché adesso dobbiamo fare il Crowd Me Up, però chiedo, Antonio, scusa. Dopo, se vuoi, ti diamo ancora un diritto di replica, però adesso cominciamo a conoscere i progetti che cercano il nostro aiuto, cari ascoltatori. Vai, cominciamo a conoscere il primo progetto, si chiama Cartu ed è il primo kit forse al mondo in cartone che permette di trasformare il telefonino in un piccolo teatro delle ombre. Lo smartphone diventa un proiettore e i personaggi sono disegnati su linguette trasparenti in PVC. Per sviluppare Cartu e aiutare il progetto a crescere servono 10.000 euro. Ce ne parla Antonio Ilic Vitolo. Buongiorno, benvenuto, ideatore di questa campagna. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, davvero una curiosità questo progetto Cartu. Spiegaci in un minuto di tempo, poco più, perché possiamo e dobbiamo sostenere con il crowdfunding questo progetto. Ok, parlo più che da ideatore di Cartu, da genitore, perché questo progetto è nato con i miei figli, Diego e Luca. Allora, ci ha appassionato Cartu perché ci aiuta a creare momenti di gioco autentico con i più piccoli. Ci aiuta a staccarci dallo smartphone inteso nel senso classico, che ci isola per essere creatori attivi di storie, mentre spesso con lo smartphone siamo consumatori passivi di immagini e video. Grandi e piccoli, con Cartu rinunciamo per un po' di tempo allo smartphone, per vivere del tempo di qualità insieme, nel quale creare e costruire delle storie, rappresentarle. Soprattutto nei laboratori che abbiamo fatto, è spettacolare vedere con quale energia i bambini si appassionano non solo alla parte di rappresentazione delle ombre, ma soprattutto alla parte di creazione delle storie. Inventano personaggi, trame, dimenticano che all'interno del kit c'è lo smartphone, il telefonino con i loro video e immagini preferite. Dong, è partito il gong. Antonio, stavi concludendo, se devi aggiungere ancora qualcosa, prego. Sì, volevo solo aggiungere che ci interessa sostenere Cartoon perché abbiamo attivato anche un programma sull'Idale che si chiama Cartoon Sospeso, che viene dal caffè sospeso, sì. Per cui per ogni ricompensa un Cartoon arriva a te, l'altro ad un'associazione che si occupa di... Ah, che bello, che bello. Quindi sostenendo Cartoon si fanno due cose, si aiuta questa tecnologia a crescere e si fa anche un gesto di solidarietà. Ma toglici una curiosità, in pratica funziona con cos'è il flash della camera? Con la torcia del cellulare, sì, con il servizio torcia del cellulare. Sì. Diciamo, capovolgiamo l'uso del telefonino, cioè diventa una sorta di proiettore. Esattamente. All'interno del kit viene inserito, si crea uno scenario nel quale con dei figurini si gioca di fantasia a quel punto lì, naturalmente. E si sa quanto i bambini si divertano a giocare di fantasia. Mi sembra molto bello. È il massimo. Bene, questo era il primo progetto. Cari giurati, Roberto, Emma e Antonio, restate belli concentrati perché adesso vi presentiamo il secondo progetto. Si chiama Tinky Do, credo, Academy Lab. Poi chiederemo al nostro ospite di dire se ho spiegato bene il nome. Ho detto bene il nome. Tinky Do Academy Lab è la prima piattaforma italiana dedicata agli smart toys. Gli smart toys sono giocattoli tecnologici grazie ai quali i genitori e i bambini possono apprendere che cosa? Le basi della programmazione informatica, una lingua della tecnologia. Il traguardo è di 10.000 euro e ce ne parla meglio Sonia China, founder di Tinkidoo. Ciao a tutti. Buongiorno, benvenuta. Allora, grazie. Abbiamo detto bene, Tinkidoo Academy si chiama il progetto? Sì, Tinkidoo è un'onomatopea che piace molto ai bambini e che mette insieme due parole magiche. La prima è il tinkering, questa filosofia venuta un po' dall'America del ridare vita alle cose. Sì. E poi c'è il do del fare, perché noi siamo fautori di un approccio in cui i bambini apprendono attraverso le loro mani. Perfetto. Come diceva la Montessori. E allora anche a te, Sonia, diamo un minuto di tempo, poco più, per spiegarci le virtù di questo progetto che possiamo sostenere col crowdfunding. Il primo appello che voglio fare è per le mamme e i papà, quelli che pensano che i figli siano più esperti solo perché vanno più veloci a digitare i messaggi su WhatsApp. Vorrei dire a queste mamme e a questi papà che si sbagliano. Dobbiamo aiutare i bambini a diventare creativi con il digitale che li circonda, e tutto questo per essere preparati al mondo del lavoro di domani. Sostenendo Tinkidoo ed entrando nella prima community dedicata agli smart toys, tutto questo diventa possibile. E donando, quindi sostenendo la campagna, riceveranno un kit genitori. Dentro il kit genitori ci sono le guide per le attività educative, i consigli, le video lezioni, c'è uno smart toy incluso e ci sono gli sconti per partecipare ai nostri laboratori nelle città. Quindi chiediamo ai genitori di entrare nella community più smart che ci sia. Invece il secondo appello lo facciamo a tutti coloro i quali lavorano ogni giorno con i bambini in qualunque luogo, dalle scuole alle ludoteche, ai musei, agli asili, ai parchi, a casa. Tinkidoo li aiuta a trasformare il gioco in un momento di educazione al digitale per i bambini, e anche loro donando potranno ricevere il kit con dentro un giocattolo, le guide e le video lezioni. Quindi il sostegno rende una piattaforma sempre più ricca di servizi e contenuti. È passato il minuto, ma ti faccio una domanda. Cioè, come funziona? Sì. Cioè, facci un esempio pratico. Di uno smart toy. Come funziona un giocattolo per un bambino piccolo che in realtà ti insegna le basi del coding e della programmazione? Cosa difficilissima. Sì, no, però il gioco rende tutto magico e anche più facile, perché abbassa le barriere dell'informatica, no? Fa giocare un po' tutti. Allora, i giocattoli educativi connessi, quindi gli smart toys, che cosa fanno? Aiutano i bambini a scrivere il codice, e lo fanno attraverso dei pezzi fisici, tangibili. Quindi i bambini non usano lo schermo, usano dei prodotti fisici, ad tipo esempio dei mattoncini, come le costruzioni, certo, come i Lego. Certo. Il principio è assolutamente lo stesso, solo che i pezzi che utilizzano sono più vicini al gioco come lo intuiscono oggi i bambini moderni, no? Che usano molta, certo, tecnologia. E poi diventeranno dei programmatori, quindi. No, non diventeranno dei programmatori, noi non vogliamo questo. No, vogliamo, ma che mi sembrava un complimento, non volevo. Cioè, insomma, l'idea è quella, ecco, di avvicinarli, certo, al mondo della programmazione. Molto bello. Allora, grazie Sonia, anche a te, resta collegata naturalmente. Adesso la palla tocca ai nostri giudici. Quale delle due idee, dei due progetti vi ha convinto di più? La app a scopo didattico, questa qua sulla programmazione, oppure la tecnologia per giocare con le ombre? Roberto da Roma. Quale delle due? Beh, per me è Tinkidoo. Mm-hmm, perché? Perché Tinkidoo apre proprio a diversi tipi di applicazione, mentre magari il discorso delle ombre è dettato più dalla voglia di inventare storie. Va bene, quindi il tuo voto va a Tinkidoo, perfetto. Emma da Torino invece, per chi sceglie, chi propende? Per Cartoon, perché a me piacciono molto le storie, mi è sempre piaciuto inventare, sì, storie, e quindi pensare allo smartphone come un facilitatore per creare nuovi momenti di immaginazione, di situazioni e storie, mi piace molto. Così raccontiamo la storia dei suoi nonni che si scrivevano delle bellissime lettere d'amore. Molto bello, perché sono due progetti molto diversi che si confrontano, due tecnologie, uno per giocare di fantasia, l'altro invece addirittura per entrare nel mondo della programmazione. Ma servono entrambe, è molto bello, entrambe, perché senza la fantasia non serve la programmazione, e oggi senza la programmazione probabilmente non si può creare niente. Suspense, perché tutto è nelle mani di Antonio. Ce l'abbiamo ancora, Antonio? Sì, da Genova? Sì, mannaggia. Cosa? Io cerco delle cose che porti lontano il cellulare dalle mani dei bambini, e invece continuiamo a credere. Ora, a girarci intorno. No, io vorrei, i bambini devono giocare a pallone, basta col cellulare in mano, bisogna staccarglielo. Ma solo pallone non è che si può giocare. Cellulare. Scusa, no, ma quindi Antonio non voti, non voti per nessuna delle due? Colpo di scena? Ho difficoltà, non so se... Ma potete essere d'accordo con quello che dico? Sono stralunato oggi e sono d'accordo con tutto. No, non è una questione di essere d'accordo o non d'accordo, è una questione che non si può nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che i telefonini non esistano, quindi i telefonini esistono. Adesso e dobbiamo Antonio farci e Carlo conti, ricominciano. E oggi come oggi, questo è un modo per usare il telefonino in realtà per fare un gioco di ombre. Però non pensate che ci siano già troppe... No, Antonio, dobbiamo chiuderla qua. Antonio e Carlo, vi sentirete più tardi dopo la trasmissione. Va bene. Perché mi sembra che avete cose da raccontarvi, cioè potreste stare lì ore e ore, sarebbe bellissimo anche ascoltarvi. Quindi Antonio non esprime, credo, un voto, o ci vuoi ripensare sull'ultimo? Vabbè, facciamo le ombre perlomeno. Oh, va bene, siamo riusciti a tirare fuori un voto. Allora abbiamo anche un vincitore a questo punto, che è Cartù, che ha la spunta. Però è stata molto bella questa battaglia tra questi due progetti. Vero. Tutte e due tecnologie molto diverse. Io ringrazio entrambi i nostri ospiti, Antonio Ilic Vitolo per Cartoo e Sonia Achina per Tinkidoo. In bocca al lupo per i vostri progetti. Tutte e due naturalmente valgono la pena di essere sostenuti. Li trovate sulla piattaforma di Apple, ma anche sulla pagina che si può fare sul sito di Radio 24. Il traffico, torniamo tra pochissimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela.